ha. Moto che parla in the house, Jose Cuervo in the house, SNK in the house, Sasai in the house. La bomba, lo scoppio, il dolore che è troppo, il colore del morto, bianco e nero nella foto, tipo fuoco assieme a neve, brucia e gela, si alle prese, con la crema sassarese, si fa così al mio paese. Oh yeah. Figlio di Troia, scoppia, questa è la mannaia, lo zombie qua non salta, non esulta ma ti sbrana, morto che parla a vera e poca fede in santa sede, risiede nelle teste delle bestie 4-7. Mette complete teste piene di merda alle strette, non ci scorgi giù nel buio neanche con le tue vedette, vedette. La questione è stare fuori da comuni, chiese infette, associazioni maledette e sette. Essere esente, maledire ogni agente, alchimista della peste che mistifica le messe. Genti fesse, figli di questo mortorio, noi figli del demonio, welcome to the necroloquio.